Se salice di lacrime, piovigine a fuligine di ritmi che tende stasserine, di rifiuto sociale scolpito in rime, fiuto mantide in preghiere muto, scrivo il cielo immobile in saluto, Dio morente in un vicolo, quel nulla tenente, del disgusto osa tutto, tutto nel braccio in pungolo, d'aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, urla il muro, straglia e grida, e giù un'altra raglia riversa dentro lacrimosa sua tempesta, d'aver perso, perso, perso nella vita arsa, la sua scommessa, il cielo manifesta, sdraiato sulla terra di Hendrix, ricordando lei e la rapina di cuore che io mai vorrei. Se sorrisi, se d'un baleno avessi per sempre te, se dentro rima di fiore selvaggio a scrivere come sarebbe prendere te, dirette le parole ma quando tele, la tele spenta chiede di essere accesa, aspetto te, e quel cartone una fumata d'emozione, rivola accesa, lesa la terra offesa, danni dei grammi e sniffate sopra ragni, lesa le stofante, ressa in rima rizla, memoria ad oscena fiesta, siesta sotto copra, pazzia pazza in una piazza che del sangue mio puzza, urla solitudo intorno, mentre al centro urla mister nessuno, nessuno, allunga la mano al barbone e alla sua principessa, la sua gabbia sa ancora d'un manicomio in festa e rida di postumi di stress e rissa, mentre rolla io e lei seduti sulla panca a vedere il cielo che manifesta dell'orrore d'una ressa. Se salice di lacrime piovigginava puligine di ritmi che te, questa sedine di rifiuto sociale scolpito in rime, fiuto mantide io preghiere muto, scruto il cielo immobile in saluto, Dio morente in un vicolo, quel nulla tenente del disgustoso osa tutto, glutto nel braccio di un pungolo, d'aiuto, aiuto, aiuto, urlava il mulo, straglia e grido, giù un'altra raglia, riversa dentro lacrimosa e sua tempesta, d'aver perso, perso, perso nella vita arsa, la sua scommessa, il cielo manifesta, sdraiato alla terra di Hendrix, ricordando lei e la rapina di cuore che io mai vorrei. Se sorrisi, se d'un baleno avessi, per sempre te, se dentro rima di fiore, selvaggio a scrivere come sarebbe prendere te, dirette le parole a un'acqua nutele, la tele spenta chiede d'essere accesa, aspetto te quel cartone, una fumata d'emozione, rivolo accesa, lesa la terra offesa, danni dei grammi e sniffate sopra ragni, lesa le stopante ressa in mia rizla, memoria d'oscena fiesta, siesta sotto copra, pazzia pazza in una piazza che sa del sangue che mio puzza, urla solitudo intorno, mentre al centro urla mister nessuno, nessuno, allunga la mano al barbone e alla sua principessa, la sua gabbia sa ancora di un manicomio in festa e ride di postumi di stress e rissa, mentre rolla io e lei seduti sulla panca a vedere il cielo che manifesta dell'orrore di una ressa. Se salice di lacrime piovigina fuligine di ritmi che te, le sassedine di rifiuto sociale scolpito in rime, rifiuto mantide io preghiere muto, scudo il cielo immobile il saluto, Dio morente in un vicolo, quel nulla tenente dal disgusto osa tutto, tutto nel braccia si pungola. D'aiuto, aiuto, aiuto, urla il muro. Straglia e grida, giù una raglia. Riversa dentro l'anima di sua tempesta. D'aver perso, perso nella sua ritarsa. La sua scommessa, il cielo manifesta. Sdraiato nella terra d'Hendrix, ricordando lei e la rapina di cuore che io mai vorrei. Sto perdendo il senno in un soffio di sonno, il letto ospedale al mio cranio corale, cerco di nuovo il menovo, sperando, sparando rime rimbombano, Rihanna fragile accanto, rivolo di pianto, amianto nel letto di successo che sembra un cesso, gesso allo stucco di vento posato a incenso, alle vittime lapidate da faide, denso l'attonito assenzio, sulle tue cosce lacrime mie a sangue, di novelle, di rime, di salvezza langue, un libro che scrivo ove perdere noi in noi stessi, fuori dal mito, dal divo, scrivo tagliando falce di morte le messi, io funambolo di vita, io che mai amai, io che ogni rima in fondo di hai, riva di un saperti mia a cui per tutta la vita t'aspettai. Sto perdendo il senno in un soffio di sonno. Perso in un Mozart in ogni bla bla bla di ogni cosa che capto dentro al mio cervello matto. Dentro ci vedo l'occulto, qualcosa che occulto e non so, volare non so più. Alchimia non trovo che porti tutto di nuovo all'oro. Il mio alloro nel mio genio si panteizza con l'immagine tua oro. Dentro vedo quel bacio che trasformerebbe Ranocchio in un principe, ma tutto matto. Da gatto divento poi cane, poi biscia infernale. Escher, in matematiche equazioni mi perdo. Lunatico io esplodo dentro al mio cuore. Vedo il vuoto e il remoto. Vedo un taser di un mic che mi confonde, right? Dentro il quinto ride mi ci perdo come se fossi un albanese o come se avessi 20 anni per sempre e il dono che mi fai tu Dio diventa l'agonia mio. Nel fuggire fuliggine di pianto, tuoni di parole di sto cuore disincanto. Scappo, scappando da me che vedo riflesso in pozze d'asfalto, in dimentico lame. rime lasciate a sangue nelle vasche, scappando da queste liriche, scappando scacciato di casa. Il mondo si accende negando tutto dietro, il mondo nello stritolando me ora mi difende in un vetro di cuore tetro. Cerco un letto d'ospedale, vedo dentro rifiuto sociale, amore che non mi amo, ora mi vede, il vento canta attorno a me. Ora è mare di nodi, dinamite di armo, il mio fuggire cose come se corressi rimangono scie, case come se nulla tenessi, sembrano tutte mie urla di follie. Dalle case che s'affacciano mentre cammino, nuvole di caldi camini sputano il mio freddo volto supino. Le mani in una pozza mentre vado, il mio volto riflesso distorto di qualcosa entro me. Mentre me ne vado via come se fossi pazzia, mentre la piazza di canto mi urla che ora sono mia, mi urla che ora sono mia, mentre corro verso te. A quel punto azzurro tra il blu, il baleno del triste, su, su, ove io e te scappati nelle bufere di famiglie si baceremo, sotto la pioggia di due teste di canzoni chimere ci baceremo, nel fuggire fuliggine di pianto, tuoni di parole di sto cuore disincanto. Scappo scappando da me che vedo riflesso in pozze d'asfalto, in dimentico lame, lime lasciate al sangue delle vasche, scappando da queste liriche, scappando scacciato di casa. Il mondo si accende negando tutto dietro, il mondo nello stritolando me or mi difende in un vetro di cuore tetto. Cerco un letto d'ospedale, vedo dentro rifiuto sociale, amore che non mi amo. Ora vedi il vento canta attorno a me, ora è amare di no, di dinamite armo, il mio fuggire case come se corressi rimangono scie, del nostro bacio il fuggire tra queste vie. Nella notte, note di un pittore, Notre Dame di una sposa in fiamme, dama di parole di scrittori, nella merda nascono i fiori, nelle rose tue spine sanno di nomi, nomi, nomi, nemici e cori, identità dentro un mare di enigmi, dentro al cuore non risiedono cigni, dai colli rotti, da pietre di balordi, sogni miei fatemi vedere oltre incubi nel mare di identità di vetri rotti. Lo ricorri, lo ricorri, lo ricorri o muori. Dentro un rivolo di sangue ci troveremo ori sepolti da malumori. Saranno scarlatti riflessi suicidi. Siamo uno specchio da rompere. Siamo un uomo che non riesce a rinascere. Non riesce a rinascere. Freno il mio pugno alla magnum, ogni tanto il solo, il ferro lo guardo, sa di te che te ne andrai, di te che mi ucciderai, corri e fuggi da me senza voltarti mai, mentre la mia penna si allunga a dismisura, un mostro d'inchiostro incorniciare, le mie petit mona lì da amici dentro a passi d'incendio, accecato e mendico un tuo sì, come i barboni col cibo tuo sempre, esto entro le tue labbra mistico, come se avessi te la mia anima, data la mia stima, Hai corso nel buio, ogni luce, cicatrici di identità di mille facce. Coniglio del buffo triste bacco, tabacco ero, lungo e treveliero nero. Andiamo dove nessuno vuole reincarnarsi, abbracciandoci l'un l'altro, abbraccio dinamitardo. Petardo in un letto che nessuno vorrebbe incendiario. Fuori stanno girando un film hollywoodiano. Noi non morti, paura di risorgere la luce. Ti prego al contrario del signore delle tenebre. Respect Lolly Polly Dolly, come Willy Wonka in I'm so lonely, I'm so lonely. Dentro un freddo che nessuno può temprare, una scure che nessuno può battere. Dentro sono parole sorde in un mare di agognate onde. Di te che vedo tra mille e mille inganni, sei la più bella, tra grammi e dammi mi sfondi. Il cuore è il letto che nessuno vorrebbe, dove ci amiamo noi. Nessuno vorrebbe un incendio tra di noi, ma siamo solo noi, corriamo nel buio. Siamo nati nel buio, che gente sola siamo. Dentro a uno siamo, dentro a noi ci siamo. Dentro a quel diario dove scrivevi tutti i tuoi pensieri migliori, ora scrivi anche i miei. Perché me ne sto andando con una magnum in mano. O mi sparo o ti sparo, gli sparerò, gli spariamo. Non sanno dove le pallotte però poi finiranno. Dentro un vetro conficcati in mille pezzi, i nostri sguardi sono rompi, pronti a ruggire i nostri manti. Vestiti come se fossimo in lutto, noi artisti black, circuito interrotto. Dentro mille parole c'è un errore 104, come le stanze della mente dove ci sfattiamo. Ci spacchiamo come dentro mille rotti specchi. Ci spacchiamo, ricomponiamo con la colla, ma come fossimo già dei vecchi. Con le nostre giovani vecchiaie siamo un mito da sfatare, tabù da molare. Di combattimento tu non sarai un pentimento. Alessi strofinano la tua immagine così palpabile, sarà il tuo angelo fino a quando finirò all'angolo di quel buio igne, lacrime ragne, di idee insegne. Di lasciarti non si può, io che ti amo in tutti i tuoi sarò, ti crescerò perché nessuno ti vuole puro. Molti vogliono il tuo turno, io che cerco di sbocciarti, baciarti nel vento come un eroe oltre lamento. Capirti per scoprirti, ieri passi miei a saporire tue ire, a casa non va, va fuori mentre guardi il cielo coi fra. Va fuori mentre guardi il cielo coi fra. Tirando la stagna anneghi il tuo cigno, prendi il volo maior mio. Non sentire, entro il mio clivio, declino dentro questa bruttura di dose, ti cerco over cose e pose, cerco il men nuovo oltre sposare, oltre posse, oltre faide, ride dentro, sento dentro l'iride, disincanto, manto di chi sei te in vero amato, matto il mio cuore alla tua immagine come due orsacchiotti al cuore legati alle invernali ore di due baci snaturati al falso. Ride dentro, sento dentro l'iride disincanto, manto di chi sei te in vero amata, matto il mio cuore alla tua immagine come due orsacchiotti al cuore legati alle invernali ore di due baci snaturati al falso, di due baci snaturati al falso. Vento di combattimento, tu non sarai un pentimento, alle si strofinano la tua immagine, così palpabile sarò il tuo angelo, sarò il tuo angelo. Nessuno ti vuole puro, molti vogliono il tuo tonno, io che cerco di sbocciarti, baciarti nel vento come un'ora oltre il lamento. A casa non va, va fuori mentre guardo il cielo qui fra. A casa non va, va fuori mentre guardo il cielo qui fra. Dolce come veleno di bacio, laccio là, al cuore straccio, stralcio di poesia di dolcezza estrema, liria di zucchero, il nemico vuole, cazzo vuole, te dentro un pacco regalo, ma mica il suo compleanno l'amore, ore, indigestione di pillole agrodolce, sentore di Deprex, foce in te, te che sei lo zucchero all'amaro di un mondo avaro, che non lascia amaro al mio. Ma il vento non ti porta lì, o no? Dove vedi fetido, via, corri via. Io soldato purale in una REM, via. Street di vomito di falsità, glaciale slealtà. Vorrebbero darmi serenase alle tue amate labbra addormentarmi. Per i loro svegli allarmi, allarmi, allarmi. Io che in tal amore vedo sudario. Io boy ad over, salario, doppio, prego, sopra chi col cash. Uso le rime, non le pallottole, Ganesh. Uso quattro, non due, non tre mani per schiaffeggiarti. Siete al mio spingere di brutto, dei cazzo dei nani. Allori come schiaffi di mani, nel vento urla di ignavi, di uragani. La vita lavica mia scalderà infernalia. Brutto fuori, brutto senza te dentro. Te scintilla del mio ridere, mi fai più di pillole morfiniche. Portarti via da me, per loro sarebbe vincere me, solo per invidia e gelosie, ire di silfide nella rima della mia, lingua bilingue, langue, il piatto dove un altro stop intinge le sue parole nella tua testolina, un fiume di miei, a bersagliarlo, amina mia, si vede che si fa il culo, non si vede come mai più l'inchiostro, che sta roba neanche l'autotune, eppure déjà vu di cazzi amari. Ricorderò safari dei miei big street, voi sono polveri sottili, shit. No paper in the hands, oh shit. There's a million on me. Dolce come veleno di bacio, laccio là, al cuore straccio. Stralcio di poesia di dolcezza estrema, liria di zucchero. Il nemico vuole, cazzo vuole, te dentro un pacco regalo. Ma mica il suo compleanno l'amore. Ore, indigestione di pillole agrodolce, sentore di Deprex, foce in te, te che sei lo zucchero all'amaro di un mondo avaro che non lascia amaro al mio, ma il vento non ti porta lì, o no? Dove vedi fetido, via, corri via, io soldato purale in una REM, via, street di vomito di falsità, glaciale slealtà, vorrebbero darmi serenase alle tue amate labbra addormentarmi. Per i loro svegli allarmi, allarmi, allarmi. Io che in tal amore vedo sudario. Io boy ad over, salario, doppio, prego, sopra chi col cash. Uso le rime, non le pallottole, Ganesh. Uso quattro, non due, non tre mani per schiaffeggiarti. Siete al mio spingere di brutto, dei cazzo dei nani. Allori come schiaffi di mani. Nel vento urla di ignavi, di uragani. La vita lavica mia scalderà infernalia, brutto fuori, brutto senza te dentro, te scintilla del mio ridere, mi fai più di pillole morfiniche. Portarti via da me, per loro sarebbe vincere me, solo per invidia e gelosie, ire di silfide nella rima della mia, lingua bilingue, langue, il piatto dove un altro stop intinge le sue parole nella tua testolina, un fiume di miei, a bersagliarlo, amina mia, si vede che si fa il culo, non si vede come mai più l'inchiostro, che sta roba neanche l'autotune, pure déjà vu di cazzi amari, ricorderò safari dei miei big street, voi sono polveri sottili, shit, no paper in the hands, oh shit, there's a million on me. dolce come veleno di bacio, lacciola al cuore straccio, stralcio di poesia di dolcezza estrema, liria di zucchero, il nemico vuole, cazzo vuole, te dentro un pacco regalo, ma mica il suo compleanno l'amore, ore, indigestione di pillole agrodolce, sentore di Deprex, foce in te, te che sei lo zucchero all'amaro di un mondo avaro che non lascia amaro al mio, ma il vento non ti porta lì, o no? Dove vedi il fetido, via, corri via, io soldato purale in una REM, via, street di vomito di falsità, glaciale slealtà, vorrebbero darmi serenase alle tue amate labbra addormentarmi. Trust, credi, battiti il petto, feel felt, Fellini, the hope, credi in the believe, la luna continua a splendere, lieve life, anima, corpo e mente unissono impossibile, mentre tutto scorre l'immobile si trova ove, ore di crisi lo confusero dove, rivoli di pianto, piedi in torrenti di fango, percettivo indimenticava anche a sguardo basso, guardo alto, ma profondamente tutto tratta, tratto di sinestesia, canto il tocco del nostro amarci, io osservo il bacio, tocco il silenzio, gusto l'immenso, alzo il freddo, sussurro un urlo, annoso il tuo correre nel vento, amore brucio banconote, tra note e parole in un sole, fiammeggio ombre, con brividi, sfido orrori con un fiore, arca tra sbarre di alberi e cielo, libra libera, oltre prigionia di velo, veliero trapassa estasi, ritigiti, del bianco, del noto, del puro, ritrova il Peter Pan una caramella vera, non l'hai da amara, rara, volo croci, ne profumo radici, poi lecco un albero, ne bosco saggezza, fuori dal radar del percepire comune, fuori di testa, di una cressa mossa dal vento di celebrazione, la poesia è la mia messa per capire che diverso è solo un modo di percezione, per capire che nessuno ti insegna come sentire in un mondo atroce, trova la tua matrice, profuma non solo la coca ma anche l'amor della ciocia. Trust, credi, battiti il petto, feel felt, Fellini, the hope, credi in te, believe, la luna continua a splendere live, anima, corpo e mente unisono impossibile, mentre tutto scorre l'immobile si ritrova ove, ore di crisi lo confusero dove, rivoli di pianto, piedi di torrenti di fango, percepivo e dimenticava anche a sguardo basso, guardo alto, ma profondamente tutto tratto di sinestesia, canto il tocco del nostro amarci, osservo il bacio, tocco il silenzio, gusto l'immenso, ardo il freddo, sussurro un urlo, annuso il tuo correre nel vento, amore, brucio banconote tra note e parole in un sole, fiammeggio ombre, con brividi, sfido orrori con un fiore, sfido orrori con un fiore, sto sfidando orrori con un fiore. Tiro calcio a una lattina, voglio ubriaco e cartucciato, drogato dentro al mio fiato, alito dentro una laghi, sbuffolato, ciucato come sei pizze sofficini, come cioccolato e pane, come tramezzini e salsa, io e te, il mondo intorno danza, ubriaca in realtà di una sciva, la sciva è bellissima, come un posello pieno di rossissime, di baci di rossetto, profumo di donne, smacco e famolo, svelto, svelto, svelto. Una sottana nera, profumo di vera negra dentro. Magic woman bless you di Santana. In una stagna, una roba afghana. Senza te muoio, urlavo, senza tetto. Pazzo ero invano. Nano senza altezza, senza sua altezza. Peso non libra, senza sua gracias. Teso hardcore, chitarra stanca, stanza like a Satan, l'amor profano, solo il dolce suo richiamo di fiore, Fora e il suo cranio urla la notte. Solo il suo nome, la fregnera toga nel suo vestito sta canzone. E l'atomico fiore infinito amore e azione. Tiro calcio una lattina, poi l'ubriaco accartocciato, drogato dentro il mio fiato, aiuto dentro una lacchi sbuffalato, ciucato come se pizza e sofficini, come cioccolato e pane, come tra mezzini e salsa, io e te il mondo intorno danza. Tiro calcio una lattina, poi l'ubriaco accartocciato, drogato dentro il mio fiato, alito dentro una lacchi sbuffolato, ciucato come se pizze sofficini, come cioccolato e pane, come tra mezzini e salsa, io e te il mondo intorno danza. Ubriaca realtà di una sciva, la sciva è bellissima, come un posello pieno di rossissime, di baci di rossetto, profumo di donne, smacco e famolo, svelto, svelto, svelto. Una sottana nera, profumo di vera negra dentro. Magic woman bless you di Santana. In una stagna, una roba afghana. Senza te muoio, urlavo, senza tetto. Pazzo ero invano. Nano senza altezza, senza sua altezza. Peso non libra, senza sua grazia. Teso hardcore, chitarra stanca, stanza laica Satan. L'amor profano. Solo il dolce suo richiamo di fiore. Fora il suo cranio urla la notte, solo il suo nome, la fregnera toga nel suo vestito sta canzone, e l'atomico fiore infinito amore e azione. Tiro calcio una lattina, foglio ubriaco accartocciato, drogato dentro il mio fiato, alito dentro una lacchi sbuffalato, ciucato come se pizza e sofficini, come cioccolato e pane, come tra mezzini e salsa, io e te il mondo intorno danza. Fora il suo cranio urla la notte, solo il suo nome, la fregnera toga nel suo vestito sta canzone, e l'atomico fiore infinito amore e azione. Tiro calcio una lattina, foglio ubriaco accartocciato, drogato dentro il mio fiato, alito dentro una lacchi sbuffalato, ciucato come se pizza e sofficini, come cioccolato e pane, come tra i mezzini e salsa, io e te il mondo intorno danza. Mangio fuliggine in una stanza grigia e smuovo troppo in vertigine addosso. Potrei, signore, ultimo danno, ultimo mangio, o non vorrei altro, grazie. Solo lei verrei, solo lei, ultima cena, i cavoli miei. Solo se sei te, te dentro me, o non c'è altro. Se dipingo dentro al mio sogno ti realizzo, protagonista del mio fumetto, la tua storia come suona, sono in pieno d'idea, lei mea, dentro un quaderno vero, fuori il mondo trema, per ciò che saprei scrivere di te, farti brillare stella, stella mia, bella brilla, balla con Shiva, realtà men cruda, ora che la danza si fa men cruda, balla solo un minuto al centro del mio tutto. E te, tutto per me, per te io. Tenerei, t'amo fiore mio narciso del fango, t'amo, tengo a te, più che a me. Forse magari lo stesso per te. T'amo il vento fermo, non osa, sosa. Sì, io mi faccio albero vicino al ramoscello dove ti siedi, perché tu possa venire usignolo a cantare un po' per me. Sono una zampa in qua chiedo per un battito che dall'altra parte del mondo uragano. Non prostituire la tua farfalla ma brilla, non venderti il mio corteggiarti, veleni scarsi oramai, inermi venti placate. Oh, se sì, abbassare le mani alla gioia delle mie lacrime, d'averti mia bianca pura ragione d'essere mia, tutto darei il mio cuore oltre all'oltre della. ci pensa lei, io Atreio, fantasia una brilla, favola diventa indistruttibile, favola, favola mia, l'amore non ha limite, zeppelin indistruttibile senza limite, senza fine, senza meta, nel cosmo alla fine, lì la strada di fuga serena, dove vengo, non osa nessuno ove, c'è concina la serena. Penna anarchia, parola libera, che in un ruggito libra, libera energia libera, libri che assumo, consumo, trassudo di lettere e pagine d'arte, flash di un mostro d'arte che dentro mi fa nuovi capolavori, disegna e entra sempre me all'ori e ori, ma diverso da me, mia nemesi empire ove io me Dio, mi contatta in dimensioni, immensi me. Rimedio al male di digiuno mio, dito medio tra prigioniera, mente e Zion, nocchiere di inchiostro, traghetto all'assoluto emozione d'eterno. Man, man, man, dice una voce talvolta, la voce stravolta da un'emozione coperta al fresco della mia sogna. L'immenso si palesa, l'immenso digrigna, i denti sul finito fino a rodere l'osso. Osso pligo, testa bassa, o toro su, emozioni non proprio commosso. Fossa d'entrambi la mia penna, mentre parole di libertà fanno corso. E ogni singola parola la bit di fuoco taglia, la carta in un ignore fuso, confuso passo ad acceso, brucio l'inerzia attraverso il virtuoso, salendo vi lascerò a riposo, ma con libre e libere rime da farvi pensare fin dove oso. Posso, sposso, l'animo trova il virtuoso mostro, morso all'osso mio, che fa volare mobili e ali ovunque, il silenzio dell'anima lo concede la lirica, alza lo stereo sopra le linee, il confine rosso di ciò che tormento l'idea e amore, tra vomito e diarrea ritrovo l'idea di libertà, nessuno ci ingabbierà, nessun padrone verbale guida la penna, le piume con una Mustang in piena consegna, un fiume in penna diventa espressione piena, un corso in piena pienezza d'anima, esorcismo d'identità, scorre la lama sulla pelle e l'uomo silente attraverserà la valle senza l'emozione che nel sillogismo freddo del meditabondo senza prigione si troverà, in un sisma e tempesta di memorie corrugate che nero tratto sfilerà, ultima parola del vento, l'io in una Pandora del proprio inchiostro con un vestito tutto nostro. Come parole di Sartre, il nostro abito di diamante sfilerà per il corso, come lei all'ultimo sensibile morso di prigionia, poi l'anima sua in una scintilla di credo esploderà, poi l'anima sua in una scintilla di credo esploderà. Ultima parola nel vento, l'io, in una Pandora del proprio inchiostro con un vestito tutto nostro, come parole di Sartre il nostro, abito di diamante sfilerà per il corso, come lei all'ultimo sensibile morso di prigionia, poi l'anima sua in una scintilla di creo esploderà libra. Encodings on the track. coltello riverso a terra, sangue sporco di guerra, un'aia e poi andai in guerra fredda, psicologa, dura, irta, la nuova guerra, moda del bullismo di nuova scuola, ora nella scuola, riverse in lacrime a terra, una bambina sola, gridava mamma, mamma, papà, era obesa, lesa, a calci presa dai suoi stessi amici, a cui urlava che per il culo l'avevano presa. No, no, non era una festa, anche col popcorn di quel prof bavoso che si era divertita con in mano una diet cola, in presa diretta l'aveva ripresa, perché nessuno mi ha soccorso, pronto, pronto, soccorso, pronto, pronto, almeno voi non ridete di me, ditemi almeno scusa voi, a posto, niente a posto, quattro costole rotte, quattro denti persi, un malumore di un sentore di vita persa, assa stravolta odore di sangue, quel piatto che ora languore nazi brucia del suo sangue, quel padre e madre che non osano fare niente, osare ora la psichiatria e la sua casa, il centro sociale, il farmaco, sua madre, il dottore, suo padre, il lacrime, la famiglia, non sa più che pesci pigliare, l'anoressia la prende come un'amica, le stringe la mano fino alla soglia tombale, ora sì qualcuno se la va a trombare, il suo volto supina sulla posta flash, suo padre e sua madre, mentre il più figlio della scuola se la sta per chiavare. Amare, parola lontana, come aquiloni al mare. Amare, parola lontana, come aquiloni al mare. Riverso a terra, sangue sporco di guerra, naia, puoi andare in guerra fredda, psicologica, dura, irta, la nuova moda, guerra di bullismo, di nuova scuola, ora nella scuola riversa a terra in lacrime, una bimba sola, gridava mamma, mamma, mamma, papà, era obesa, lesa, presa a calci dai suoi stessi amici, a cui urlava che per il culo l'avevano presa, no, non era una festa, anche col popcorn, quel prof baboso che si era divertita con in mano dai a cola, a presa diretta l'aveva ripresa, perché nessuno mi ha soccorso, pronto, pronto, soccorso, pronto, almeno voi non ridete di me, ditemi almeno scusa voi, a posto, niente a posto, quattro costole rotte, quattro denti persi, un malumore di un sentore di vita persa, arsa, stravolta odore di sangue, quel piatto che ora l'angolo nazista brucia del suo sangue, e quel padre e madre che non sanno che fare, usare la psichiatria e la sua casa, centro sociale, il farmaco, sua madre e il dottore, suo padre, in lacrime, la famiglia non sa più che pesci pigliare. L'anoressia la sorprende come un'amica, le stringe la mano fino alla soglia tombale. Ora sì qualcuno se la vorrà trombare, ora sì qualcuno se la vorrà trombare. Il suo volto supina sulla posta, flessi, sua madre e suo padre, mentre il più figo della scuola se la sta per chiamare. Amare, parola lontana come aquiloni al mare. Just your tracks today. Festa della mia vanità, genio nel senno, se no, se no, se no, vedo Mademoiselle d'Avignon spogliarsi in giro di danza, amen, meo Deo, amadeus io, mentre tesse il vestito di Cleopatra mea, amanti siamo, diamanti siamo, siamo sull'orlo di un desiderio estremo, meno, meno, meno, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, e più mani volani di rime di più e better. Flow, feel, felt and I feeling. Sono Lucifer con in mano quattriche diversi, fiumosi di inchiostri versi, di mostri, cori di fiere. Shh. L'amore è un déjà vu. Mentre c'è questo mic sono, poi non ce la fai, te. E te fiumi di donne o solo te, per me merende, compagnie di sogni, malumori alle arabe fenici e sogni umani che sfiorate l'impossibile dissuadendo e amando angeli del ghetto figlio. Io vedo da onirica passeggiata sulle nuvole, nuvole fecondate di sperma mio, che nasca tra voi Dio. Amadeus mi presento, sono Amadeus, doppio come uno specchio d'orgoglio. Voglio bianco coniglio, voglio l'erba, voglio ancora, ancora, ancora, ancora di stella sul collo, fatto fino al midollo, no pollo, no pollo. Sì, io, mio, fatto tutto io, da Dio, sto cazzo è Dio. Meglio una delusione vera che finto Dio. Meglio una delusione vera che finto Dio. Festa della mia vanità, genio nel senno, se no, se no, se no. Vedo Mademoiselle d'Avignon spogliarsi in giro di danza, amen meo Deo Amadeus, mentre il testo è il vestito di Cleopatra mea. Amanti siamo, diamanti siamo, siamo sull'orlo di un desiderio estremo. Meno meno più più più più più più più più più più più più. E più umani, meno umani, volani di rime di più e better flow feel. E nel feeling sono Lucifer con in mano quattriche diversi, fiumosi di inchiostri, versi di mostri, core di fiere. L'amore è un déjà vu. Più mentre c'è questo mai sono, poi non ce la fai te. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e tre nel tuo culo trotterellando. Amore di ruggine, inquietudine, fuligine, amore che non parti, partono ceffoni, mani, villani, giochi di mani, nani contro donne, non alzate le mani, oh. Meglio gli origami di banconote, note dolenti, morenti su rive onniscienti, veggenti versi, terzi di liquori e riversi, uomini sconfitti da tempo avversi, non facci gli occhi di bimbi affamati persi. Arsi i loro cuori, cini nefaste, colli rotti, botte e poi botti, capodanno rinto, desideri di morti, angoli del cuore sconosciuti, asciutti, muti, finti miti. Divi o divin poeti, meglio i versi, cristalli di TV rotti, la mia spaccata versi, attori mediocri contro artisti sconosciuti, vissuti versi di mondi di musiche, rivivrete le mie liriche, isteriche piangenti donne sotto botte di balordi, rotte in culo, ve lo mandate in culo diversi, a fiocchi e voi cornuti, violenza out, pace in, moicano mi, VIP non troppo VIP, quasi VIP, anzi no, sia alle arti, al degli avanzi, se i padroni sazi sono finti, tinti di maschere fittizie, calvizie di avarizie, timidezze mie contro sicurezze, preferisco meno astuzze, più arte, arruti come Webeke, Imhotepe, dinastia di faraoni, leoni contro coglioni, baschi, terzo, il vagabondo d'arte, militare, dei carandage, armate, colori, fuoco, date al banchiere fuoco, la povertà in mano a pochi non è un gioco da poco, è fuoco, è fuoco. Sì, alle arti delle avanze, se i padroni sazi sono finti, tinti di maschere, fittizie, calvizie di avarizie, timidizie, mie contro sicurezze, preferisco meno astuzie, più arte, arruti come Guepe, Imhotepe, dinastia di faraoni, leoni contro coglioni, maschi, terzo, vagabondo d'arte, militare, del carandage, armate, colori, fuoco. Date al banchiere fuoco, la povertà in mano a pochi non è un gioco, da poco, fuoco. You and I are not very different from this flower. Just like this flower is unique, you are unique. All of us have something special that makes us as beautiful. Do you know what makes you special? Now the answer to that can be a little difficult to find. Because sometimes life has a cruel way of picking out the petals, breaking you in two, and throwing you into the trap. And when you're broken, it's very difficult to feel special. Il mio lirismo, poeta maledetto, tempo divorato dai divoratori ingordi di sto status quo. Avete pranzato sulle odi di maggio, di un amore splendente come un raggio di sole dopo l'autunno agrodolce del mio pianto. Metto un punto in stagna, stagno il mio ragno nella ninfa, che sei te, amor linfa de amor de mi vida. Io calamita, calamità, attiro ire nella mia sogna, attirerò sempre del malato la vergogna, ma loro non sanno che oltre l'alloro ho le tele di ragna, d'oro di ogni mio sogno, che ormai cadendo si è spezzato un altro inverno, inferno, anima nera, anima lacrimosa crema, della mia muerte, la terra fragile di ogni martirio. Erte, muerte, siete, avverte te di dare il meglio, non dite ma fate, davanti agli occhi delle fate delle male. Male e sale tolto dal tuo dolce volto, ripigliati amore, il nostro treno è ora, decostruito discorso in malora, malora che togli, togli dagli sbadigli, se il mio svegliarmi in notti di incubo, porti sogno e ordine un cubo di Rubik, sei tremula foglia ora in primavera verde, verde coniglio signora delle serve, verde coniglio signora delle serve. Poeta maledetto, tempo divorato dai divoratori ingordi di sto stato squa, avete pranzato sulle odi di maggio di un amore splendente come un raggio di sole dopo l'autunno che dolce del mio pianto, metto su una punta e su una stagna, stagno il mio ragno della ninfa che siete amore del ninfa dei mi vida. Io calamita, calamità, tiro ire nella mia sogna, tirerò sempre del malato la vergogna, ma loro non sanno che oltre dall'oro ho le tele di ragno e dall'oro di ogni mio sogno, che ormai cadendo si è spezzato un altro inverno, inferno, anima nera, anima lacrimosa, trema nella mia morte, la terra fragile di ogni mortiglio, dove tu sei tre morte, avverte te di dare il meglio, non dite ma fate davanti agli occhi delle fate delle male. Delle male. Sfioro le tue mani dentro arabeschi di sogni, averti come ragno di pensieri tra dolcezze ed inganni. Morgana, mentre dea della mia guerra interiore, stride lo stupore a sentirti. Vederti la sera serra manico nel mio cuore, perdere te sarebbe errare per ore. Dentro ogni malumore, guaio interiore, sconfino il fino del sentirti fino al fino dello svernarmi. Urlerò il tuo amore, urlerò contro vento finché non sarà giusto il giusto sentore. Stento, avanzo nella foresta di morte e di incanto, dove la sera vai perdendoti aspettando. Intanto svanisco, il mio cuore meta di metà, incompleta di un piombo che stenta a farsi oro. L'alchemico mio fiordaliso e l'oro nel mio cuore, boom, boom, boom, sparano. Ogni singola parola, fiume orinoco, lacrimosa penna asciugherà lacrima. Di non averti più mia, filosofia del tutto e onniscienza si sfibrano nel senso, senso del tuo panistico mio oro, di cui devo fare meno, se no me moro, se no me moro, se no me moro. Dopo mille sere. dopo mille sere. Use X Beats.